che è volontaria del canile e che ha pensato bene di festeggiare il suo compleanno aiutando i suoi amici cani. L'appuntamento è alle 20. Le prenotazioni vanno fatte all'indirizzo circolonocage@gmail.com. Con Restiamo Animali, appuntamento a domenica mattina alle 12.